Thank you. Thank you. Fare pure il motore del, se c'è, però non sento gli altri, sono qua, no? Sì, hai sentito il numero?